È in questo modo che medici che lavorano sodo possono arrivare ad essere dannosi quasi quanto i ciarlatani, disse Lydgate piuttosto imprudentemente. Per guadagnarsi il pane devono somministrare dosi eccessive ai vassalli del re. E questo è un brutto genere di tradimento, Mr. Mosey. Mina la Costituzione in modo fatale. Mr. Mosey non era solo un sovrintendente, era per una questione di paga, per un lavoro fatto all'aperto, che aveva un colloquio con Lydgate. Era anche affetto da asma e aveva una famiglia in crescita, talché da un punto di vista medico, oltre che dal proprio, egli era una persona importante. In effetti, un droghiere eccezionale, i cui capelli erano pettinati a piramide, simile a una fiamma, e la cui deferenza di venditore era del genere cordiale e incoraggiante, scherzosamente complimentosa e con una certa sollecita astensione dall'esprimere il proprio pensiero in tutta la sua portata. Era stata l'amichevole giocosità di Mr. Mose nell'interrogarlo a suggerire il tono della risposta di Lydgate. Ma che i saggi facciano attenzione a dare spiegazioni troppo pronte, ciò moltiplica le fonti dell'errore, allungando il numero degli addendi per coloro che nel computo non sono abbastanza abili. Lydgate sorrise mentre terminava di parlare, infilando il piede nella staffa, e Mr. Mosey rise più di quello che avrebbe fatto se avesse saputo chi erano i vassalli del re, augurandogli il suo buongiorno signore, buongiorno signore, con l'aria di uno che capiva tutto abbastanza chiaramente. Ma in verità la sua opinione era turbata. Da anni pagava conti per ricette rigorosamente composte, così che per ogni mezza corona e 18 soldi era certo che gli era stato consegnato qualcosa di quantificabile. Aveva fatto ciò con soddisfazione, includendolo fra le proprie responsabilità di marito e di padre, e considerando una ricetta più lunga del solito una dignità a cui valeva la pena di accennare. Per di più, in aggiunta al beneficio massiccio delle medicine per detto e famiglia, egli aveva goduto del piacere di formarsi un'opinione sottile quanto al loro effetto immediato, in modo da dare un resoconto intelligente sul metodo di Mr. Gambit. Un generico, appena un po' inferiore di rango, avvenco, Toller, estimato soprattutto come ostetrico, delle cui capacità Mr. Mosey aveva una pessima opinione su ogni altro punto, tranne il suo metodo per curare le malattie. Ed era solito dire a bassa voce che in questo egli poneva Gambit al di sopra di uno qualsiasi di loro. Ecco motivi più profondi delle chiacchiere superficiali di un nuovo venuto, che apparvero ancora più inconsistenti nel salotto sopra il negozio quando furono riferite a Mrs. Mosey, una donna abituata a godere di grande considerazione in quanto prolifica madre. In genere visitata più o meno di frequente da Mr. Gambit e in qualche occasione in preda ad attacchi che richiedevano la presenza del dottor Minchin. Questo Mr. Lydgate vuol dire che è inutile prendere le medicine, disse Mrs. Mosey, che era portata a un lieve parlare strascicato. Mi piacerebbe che mi dicesse come potrei sostenermi nel periodo della fiera se non prendessi dei corroboranti con un mese di anticipo. Pensate a quello che devo fare per procurarmi clienti, mia cara. A questo punto Mrs. Mosey si volse verso un'amica intima che le sedeva vicino. Un grande pasticcio di vitello, un filetto ripieno, un girello di manzo, prosciutto, lingua, eccetera, eccetera. Ma quello che mi tiene più su è lo sciroppo rosa, non quello marrone. Mi chiedo, Mr. Mosey, con la tua esperienza, come abbia potuto avere la pazienza di stare ad ascoltare? Io gli avrei detto subito che la sapevo un po' più lunga. No, no, no, no, no, disse Mr. Mosey. Non avevo voglia di dirgli la mia opinione. Stare ad ascoltare tutto e giudicare con la mia testa, questo è il mio motto. Ma lui non sapeva con chi stava parlando. Non sono fatto per farmi influenzare da lui. La gente spesso pretende di insegnarmi delle cose, quando potrebbe benissimo dirmi: Mosey, siete uno stupido. Ma io sorrido, a seconda dei punti deboli di ciascuno. Se la medicina avesse fatto del male a me e famiglia, a quest'ora lo avrei scoperto. Il giorno successivo a Mr. Gambit fu detto che Lydgate andava in giro a dire che le medicine non servivano. Davvero? Fece lui alzando le sopracciglia con cauta sorpresa. Era un uomo vigoroso e robusto con una grossa fede all'anulare. Allora come curerà i suoi pazienti? Ma è quello che dico io, ribatté Mrs. Mosey, la quale per abitudine sottolineava il proprio discorso calcando sui pronomi. Lui pensa che la gente lo pagherà solo per venire, sedersi con loro e andarsene di nuovo. Mrs. Mosey si intratteneva di frequente con Mr. Gambit, i cui discorsi comprendevano resoconti estesi delle sue abitudini fisiche e altre faccende. Ma naturalmente egli sapeva che nella sua battuta non c'era nessuna insinuazione, dato che il suo tempo libero e i racconti personali non se li era fatti pagare, mai. Quindi egli ribatté allegramente: Beh, Lydgate è un giovanotto di bell'aspetto, sapete, non uno di cui io mi servirei, disse Mrs. Mosey. Gli altri possono fare come vogliono. Quindi Mr. Gambit poté lasciare la casa del principale droghiere senza timore di avere rivali, ma non senza la sensazione che Lydgate fosse uno di quegli ipocriti che cercano di screditare gli altri esaltando la propria onestà e che valesse la pena che qualcuno lo smascherasse. Mr. Gambit, tuttavia, aveva una clientela soddisfacente, assai permeata dagli odori del commercio al dettaglio, che suggeriva una riduzione in cambio di un pagamento in contanti. Ed egli non pensava che valesse la pena smascherare Lydgate finché non sapesse come. In effetti non aveva grandi risorse in fatto di istruzione e aveva dovuto farsi strada contro una buona dose di disprezzo da parte dei professionisti. Ma non era uno strascico peggiore per il fatto di chiamare l'apparato respiratorio polmoni. Altri medici si sentivano più capaci. Mr. Toller aveva la clientela più numerosa in città e apparteneva a una vecchia famiglia di Middlemarch. C'erano dei Toller nell'avvocatura e in qualsiasi altro ramo superiore a quello del commercio al dettaglio. A differenza del nostro irascibile amico Wrench, aveva l'abitudine di prendere con la massima tranquillità di questo mondo le cose che si poteva pensare e lo irritassero, essendo un uomo ben educato, placidamente faceto, che si trattava bene. Era assai amante di un po' di sport quando poteva trovare il modo di praticarlo, molto amico di Mr. Hawley e ostile a Mr. Balstro. Può sembrare strano che con tali abitudini gradevoli fosse incline a trattamenti energici, salassando, applicando vescicanti e facendo morire di fame i propri pazienti, con una calma indifferente per il suo esempio personale. Ma questa incongruenza promuoveva l'opinione della sua bravura fra i suoi pazienti, i quali solitamente osservavano che Mr. Toller era pigro di carattere, ma la cura era attiva, quanto lo si potesse desiderare. Nessuno, dicevano, esercitava la propria professione con maggiore serietà. Era un po' lento ad arrivare, ma quando arrivava faceva veramente qualcosa. Era uno dei beniamini del proprio circolo e qualsiasi cosa sottintendesse a svantaggio di qualcuno pesava doppiamente per il suo tono incurante e ironico. Naturalmente si stancò di sorridere e di dire ah, quando gli riferirono che il successore di Mr. Peacock non intendeva somministrare personalmente le medicine. E quando un giorno Mr. Eckbert si accennò fra un bicchiere e l'altro a un pranzo, Mr. Toller disse allegramente: Dibbitt si sbarazzerà delle sue medicine stantie allora. Mi è simpatico il piccolo Dibbitt, sono contento che stia facendo fortuna. Capisco cosa intendete dire, Toller, fece Mr. Eckbert, e condivido del tutto la vostra opinione. Coglierò l'occasione propizia per esprimermi in questo senso. Un medico dovrebbe essere responsabile della qualità delle medicine consumate dai propri pazienti. Questa è la ragione fondamentale del sistema di pagamento che finora è stato praticato. E nulla è più offensivo di questa ostentazione di riforma in cui non vi è nessun reale miglioramento. Ostentazione, Akbat? Disse Mr. Toller con ironia. Non la vedo. Uno non può ostentare quello in cui nessuno crede. Non c'è riforma nella faccenda. La questione è se il profitto sulle medicine viene pagato al medico, dal farmacista o dal paziente e se ci sarà un pagamento extra sotto la voce di assistenza medica. Ah, certo, una delle vostre maledette nuove versioni della vecchia impostura, disse Mr. Hawley, passando la bottiglia a Mr. Wrench. Mr. Wrench, in genere astemio, beveva spesso vino con liberalità a cena, diventando di conseguenza più irritabile. Quanto all'impostura, lei disse, è una parola facile da lanciare, ma ciò contro cui lotto è il modo in cui i medici stanno insozzando il loro nido e fanno correre per il paese la voce che se un generico vende medicine, non può essere un gentiluomo. Respingo l'accusa con sdegno. Io dico, il tiro più villano che uno può giocare è di venire fra i membri della sua professione con innovazioni che sono un oltraggio per la loro prassi consacrata dal tempo. Questa è la mia opinione e sono pronta a sostenerla contro chiunque mi contraddica. La voce di Mr. Wrench si era fatta estremamente acuta. Non posso essere d'accordo con voi su questo punto, Wrench, disse Mr. Hawley, ficcandosi le mani nelle tasche dei pantaloni. Mio caro amico, disse Mr. Toller, intromettendosi pacificamente, guardando Mr. Wrench. La cosa irrita più gli internisti di noi. Se parliamo di dignità, è una questione per Minchin e Sprague. La giurisprudenza medica non prevede nulla contro queste infrazioni. disse Mr. Hackbutt col desiderio disinteressato di offrire i suoi lumi. Cosa dice la legge, Ale? Niente da fare su questo punto, disse Mr. Ale. Me ne sono occupato per Sprague. Vi rompereste solo il muso contro la decisione di un maledetto giudice. Pah, non c'è bisogno della legge, disse Mr. Toller. Per quello che riguarda la pratica medica, il tentativo è un'assurdità. A nessun paziente andrà a genio, certo non a quelli di Peacock che sono abituati alla deplezione. Passatemi il vino. La predizione di Mr. Toller in parte si avverò. Sam Easter e Mrs. Mosey, che non avevano alcuna idea di ricorrere a Lydgate, furono messi a disagio dalla sua supposta affermazione contraria alle medicine. Era inevitabile che coloro che lo chiamavano a casa guardassero con una certa ansia per vedere se davvero usava tutti i mezzi a sua disposizione per il caso. Persino il buon Mr. Powdrell, il quale nel suo costante tentativo di interpretare le cose con benevolenza era incline a stimare Lydgate di più per quella che sembrava la coscienza applicazione di un progetto migliore, ebbe la mente turbata da dubbi durante un attacco di risipola della moglie. E non si poté trattenere da ricordare a Lydgate che Mr. Peacock, in un'occasione analoga, le aveva somministrato una serie di pillole non altrimenti definibili se non in base all'effetto notevole di rimettere in sesto Mrs. Powderell prima della festa di San Michele da una malattia che era cominciata in un agosto eccezionalmente caldo. In effetti, alla fine, nel conflitto fra il desiderio di non urtare Lydgate e la sua ansia di non lasciare intentato alcun mezzo, egli indusse in tutta segretezza la moglie a prendere le pillole depuratrici di Wigedon, un apprezzato medicamento di Middlemarch che colpiva ogni malattia alla fonte, mettendosi ad operare seduta stante sul sangue. Questa misura di sostegno non doveva venir rivelata a Lydgate e Mr. Powderell stesso non aveva una fiducia cieca in essa. Sperava solo che fosse seguita da un effetto benefico. Ma in questa fase incerta dell'entrata in scena di Lydgate, egli fu aiutato da ciò che noi mortali avventatamente chiamiamo fortuna. Credo che nessun medico sia mai arrivato di fresco in un posto senza operare delle guarigioni che abbiano sorpreso qualcuno, delle guarigioni che si possono chiamare le referenze della fortuna e che meritano lo stesso credito di quelle scritte o stampate. Vari pazienti si ristabilirono anche da malattie gravi mentre Lydgate li assisteva. E si notò che il nuovo dottore, con i suoi nuovi metodi, aveva almeno il merito di guarire i pazienti che avevano già un piede nella fossa. Le stupidaggini dette in simili occasioni irritarono ancora di più Lydgate, perché gli conferivano esattamente il genere di prestigio che avrebbe desiderato un uomo incompetente senza scrupoli e l'antipatia in fermento degli altri medici, di certo. Gliel'avrebbero imputato come il tentativo di incoraggiare l'adulazione da parte degli ignoranti. Ma anche la sua franchezza orgogliosa fu soffocata dalla constatazione che combattere contro le interpretazioni dell'ignoranza era inutile, come frustare la nebbia, e la buona fortuna insistette a servirsi di quelle interpretazioni. Siccome Missy Larker era appena stata presa da una caritatevole preoccupazione per i sintomi allarmanti della sua donna delle pulizie, quando il dottor Minchin passò, gli chiese seduta stante di visitarla e di darle un certificato per l'ospedale, al che dopo un esame gli espose per iscritto il caso presentandolo come un tumore e raccomandò di accettare la latrice Nancy Nash come paziente esterna. Nancy, passando da casa diretta all'ospedale, permise al bustaio e alla moglie, nella soffitta della cui casa alloggiava, di leggere il foglio del dottor Minchin e in tal modo divenne argomento pietoso di conversazione nei negozi adiacenti di Churchyard Lane, in quanto affetta da un tumore dapprima definito grosso e duro come un uovo di anatra, ma poi, nello stesso giorno, delle dimensioni del vostro pugno. La maggior parte degli ascoltatori concordò sul fatto che avrebbe dovuto essere asportato. Ma uno sapeva di un olio e un altro di una squicciniglia adatti ad ammorbire e a ridurre qualsiasi ingrossamento del corpo se ingeriti in misura sufficiente. L'olio sorseggiandola poco a poco, la squicciniglia mangiandola. Frattanto, quando Nancy si presentò all'ospedale, si dette il caso che quello fosse uno dei giorni di servizio di Lydgate. Dopo averla interrogata e visitata, Lydgate disse sottovoce al chirurgo interno: "Non è un tumore, è uno spasmo." Le prescrisse un vescicante e un po' di sciroppo di ferro e le disse di andare a casa e mettersi a riposo, dandole nello stesso tempo un biglietto per Mrs. Larker, la quale, a sentir lei, era la sua migliore datrice di lavoro per attestare che la donna aveva bisogno di buon cibo. Subito dopo Nancy, nella sua soffitta, peggiorò in modo stupefacente. Il supposto tumore in effetti era scomparso per effetto del vescicante, ma solo per trasferirsi in un'altra parte con un dolore più acuto. La moglie del bustaio andò a chiamare Lydgate e questa assistette Nancy per 2 settimane in casa, finché col suo trattamento lei si ristabilì completamente e tornò al lavoro. Ma il caso continuò a venire descritto come un tumore in Churchyard Lane e in altre vie, anzi, addirittura da Mrs. Larker. Perché quando l'eccezionale guarigione opera di Lydgate venne fatta presente al dottor Minchin, questi naturalmente non se la sentì di dire: non era un caso di tumore, mi sono sbagliato a descriverlo come tale. Ma rispose: davvero? Avevo visto che era un caso operabile, non di genere maligno. In cuor suo, però, quando aveva chiesto all'ospedale della donna che aveva mandato 2 giorni prima, si era irritato a sentire dal medico interno, un giovanotto a cui non spiaceva contrariare impunemente Minchin, ciò che era accaduto esattamente. Egli in privato dichiarò che era una vergogna che un generico contraddicesse la diagnosi di un professore in modo così aperto e in seguito concordò con Wrench sul fatto che Lydgate mostrava una deplorevole disattenzione in materia di etichetta. Lydgate non si servì della faccenda per vantarsi o in particolare disprezzare Minchin, dal momento che simili rettifiche di giudizio si fanno fra uomini di uguale qualifica. Ma si sparse la voce di questo caso sorprendente di tumore, non chiaramente distinto dal cancro, e considerato tanto più terribile per essere del tipo vagante. Finché molti pregiudizi contro il metodo di Lydgate e di somministrazione delle medicine vennero sconfitti dalla dimostrazione della sua meravigliosa abilità nel guarire rapidamente Nancy Nash, dopo che si era rotolata di continuo fra i tormenti dovuti alla presenza di un tumore duro e ostinato, ma non di meno obbligato a cedere. Cosa ci poteva fare Lydgate? È un'offesa dire a una signora, quando esprime il suo stupore per la vostra abilità, che si sbaglia completamente e il suo stupore è piuttosto sciocco. E adentrandosi nella spiegazione della natura delle malattie, avrebbe soltanto aggravato la sua violazione dell'etica medica. Cosicché dovette indietreggiare davanti alla promessa di un successo datogli da quella lode ignorante che non scorge nessuna valida qualità. Nel caso di un paziente più in vista, Mr. Borthrop Tremble, Lydgate fu consapevole di essersi dimostrato superiore a un medico qualunque, sebbene anche qui il vantaggio che gliene derivò fosse dubbio. L'eloquente banditore fu preso dalla polmonite ed essendo stato paziente del dottor Peacock, mandò a chiamare Lydgate, di cui aveva espresso l'intenzione di essere cliente abituale. Mr. Tremble era un uomo robusto, un buon soggetto su cui sperimentare la teoria dell'attesa. Osservare il decorso di una malattia interessante quando lasciava il più possibile a se stessa, in modo da poter prendere nota degli stadi per regolarsi in futuro. E dall'aria con cui egli descrisse le sue sensazioni, Lydgate dedusse che avrebbe gradito accordare fiducia al suo medico e venire presentato come compartecipe alla sua stessa cura. Il banditore, senza gran sorpresa, udì che la sua era una costituzione che, sempre tenuta sotto la dovuta osservazione, poteva venire lasciata a se stessa, in modo da offrire un bellissimo esempio di una malattia osservata chiaramente in tutte le sue fasi, e che egli probabilmente aveva la rara forza di volontà di offrirsi spontaneamente per sperimentare un metodo razionale e in tal modo trasformare le alterazioni delle sue funzioni polmonari in un beneficio generale per la società. Mr. Tremble acconsentì immediatamente e accolse con entusiasmo l'idea che una sua malattia non era un'occasione comune per la scienza medica. Non temete, signore, non state parlando a uno del tutto sprovvisto in tema di vis medicatris, disse con la sua consueta superiorità di espressione, resa alquanto patetica dalla difficoltà di respirazione. E sopportò, senza indietreggiare, l'astinenza delle medicine, assai confortato dall'applicazione del termometro che implicava l'importanza della sua temperatura, dalla sensazione di fornire oggetti per il microscopio e dall'apprendimento di molte nuove parole che sembravano adatte alla dignità delle sue secrezioni. Infatti Lydgate fu abbastanza scaltro da soddisfarlo con alcune chiacchiere di carattere tecnico. Si può immaginare che Mr. Tremble si levò dal suo giaciglio assai disposto a parlare di una malattia in cui aveva manifestato la forza della propria volontà oltre che della propria costituzione fisica e non fu riluttante a far credito al medico che aveva saputo distinguere il genere di paziente con cui aveva a che fare. Il banditore non era una persona ingenerosa e gli piaceva dare agli altri ciò che loro spettava, pensando di poterselo permettere. Aveva preso le parole metodo dell'attesa e si diffuse su queste e altre espressioni dotte per accompagnare l'assicurazione che Lydgate sapeva un paio di cose più degli altri medici. Era assai più addentro nei segreti della sua professione rispetto alla maggioranza dei suoi colleghi. Ciò era successo prima che la faccenda della malattia di Fred Vincey avesse conferito alla versione di Mr. Wrench per Lydgate una base più definita e personale. Il nuovo arrivato già minacciava di essere una seccatura come rivale ed era certamente una seccatura sotto l'aspetto della critica pratica o delle riflessioni sui suoi colleghi più anziani, costretti a un duro lavoro che avevano avuto qualcos'altro da fare invece che di occuparsi di teorie non sperimentate. La sua clientela era aumentata in un paio di quartieri e fin dall'iniziazione la voce dei suoi alti natali gli aveva generalmente guadagnato numerosi inviti. Così che gli altri medici dovettero incontrarsi con lui a cena nelle case migliori. E si può osservare che dover incontrare un uomo antipatico non termina sempre in un mutuo attaccamento. Fra di loro non c'era mai stata tanta unanimità come nell'opinione che Lydgate fosse un giovane arrogante eppure pronto allo scopo di predominare a mostrare un servilismo strisciante verso Bulstrode. Il fatto che Mr. Fairbrother, cui nome era una delle bandiere principali del partito anti-Bulstrode, difendesse sempre Lydgate e gli fosse amico, era attribuito al modo inspiegabile di Fairbrother di combattere su entrambi i fronti. Tutto ciò era più che sufficiente per lo scoppio di disgusto professionale all'annuncio dei regolamenti che Mr. Bulstrode stava predisponendo per la direzione del nuovo ospedale, che erano tanto più esasperanti perché non vi era alcuna attuale possibilità di ostacolare la sua volontà e il suo piacere, dal momento che tutti, tranne Lord Medlicott, avevano rifiutato di contribuire alla costruzione dell'edificio, col pretesto che preferivano fare delle donazioni al vecchio ospedale. Mr. Bulstrode affrontò tutte le spese e cessò di dolersi di comprare il diritto di realizzare le sue idee di miglioramento senza ostacoli da parte di collaboratori prevenuti. Ma aveva dovuto spendere grosse somme e la costruzione dell'edificio era andata a rilento. L'aveva cominciata Caleb Garth, che aveva fatto bancarotta durante i lavori e prima che le installazioni interne fossero cominciate, si era ritirato dalla direzione dell'impresa. E quando parlava dell'ospedale diceva spesso che comunque rispondesse Balstrow, se glielo si chiedeva, gli piacevano opere di falegnameria e murature buone e solide, ed era pratico sia di fognatura che di camini. In effetti l'ospedale era divenuto oggetto di intenso interesse per Balstrow e avrebbe volentieri continuato a spendere per esso una grossa somma annuale per poterlo dirigere in modo dittatoriale, senza alcun consiglio dall'amministrazione. Ma aveva anche un altro desiderio prediletto e anch'esso richiedeva denaro per la sua realizzazione. Desiderava comprare un po' di terreno nelle vicinanze di Middlemarch e per questo aveva bisogno di considerevoli contributi per il funzionamento dell'ospedale. Frattanto delineò il suo progetto di conduzione. L'ospedale doveva essere riservato alle malattie infettive in tutte le loro forme. Lydgate sarebbe stato il primo supervisore medico, in modo da poter avere l'autorità e la libertà di condurre tutte le indagini comparative di cui i suoi studi, soprattutto a Parigi, le avevano mostrato l'importanza, mentre gli altri medici avrebbero avuto la funzione di consulenti, ma nessuna autorità di contestare le decisioni di Lydgate. E la direzione generale doveva essere esclusivamente nelle mani di cinque direttori associati a Bulstrode, che avrebbero avuto voti in rapporto ai loro contributi, mentre il Consiglio stesso eleggeva quel membro il cui posto fosse restato vacante e nessuna folla di piccoli sovvenzionatori sarebbe stata ammessa a condividere la direzione. Da parte di ogni medico della città venne un immediato rifiuto a divenire consulente dell'ospedale delle malattie infettive. Molto bene, disse Lydgate a Bulstrode, abbiamo un ottimo chirurgo e un farmacista interno, un tipo dalle idee chiare e abile. Ci prenderemo Webb da Crasley, un generico di provincia buono quanto uno qualsiasi di loro, che verrà 2 volte alla settimana e in caso di qualsiasi operazione eccezionale. Protrow verrà da Bressing. Io dovrò lavorare più sodo, è tutto, e ho rinunciato al mio posto al vecchio ospedale. Il piano prospererà al loro malgrado e poi saranno contenti di venire. Le cose non possono andare avanti così. Fra poco ci dovranno essere riforme di ogni genere e allora dei giovani saranno lieti di venire a studiare qui. Lydgate era assai ottimista. Io non mi tirerò indietro, potete contarci, Mr. Lydgate, disse Mr. Barstrode. Finché vi vedrò perseguire alti intenti con vigore, avrete il mio appoggio incondizionato. e ho l'umile speranza che la benedizione che finora ha accompagnato i miei sforzi contro lo spirito del male in questa città non venga meno. Dei direttori adatti per assistermi non ho dubbi di trovarli. Mr. Brook di Tipton mi ha già dato il suo assenso e la promessa di un contributo annuale. Non ha specificato la somma, probabilmente non molto alta, ma sarà un membro utile del consiglio. Un membro utile si poteva forse definire uno che non avrebbe preso nessuna iniziativa e avrebbe sempre votato con Bulstrode. La versione dei medici per Lydgate ormai non era più mascherata. Né il dottor Sprague né il dottor Minkin dissero di provare avversione per le conseguenze di Lydgate o per la sua predisposizione a migliorare il trattamento. Ciò per cui provavo una versione era la sua arroganza, che nessuno si sentì di negare del tutto. Nei loro discorsi era sottinteso che era insolente, pretenzioso e amante di quelle innovazioni avventate per far chiasso e per amore di esibizionismo, che era l'essenza della ciarlataneria. La parola ciarlatano, una volta messa in giro, non la si poté ritirare. A quei tempi il mondo era scosso dalle eccezionali operazioni di Mr. Saint Long John, con nobili e gentiluomini che attestavano che aveva estratto un fluido simile al mercurio dalle tempie di un paziente. Mr. Toller un giorno disse, con aria sorridente, a Mrs. Taft che Balstro aveva trovato un uomo che gli si addiceva in Lydgate. Un ciarlatano in religione deve certo trovare simpatici altri tipi di ciarlatani. Sì, veramente posso immaginarlo, disse Mrs. Taft, tenendo per tutto il tempo ben fisso in mente il numero di 30 maglie. Ce ne sono tanti di quel genere. Ricordo Mr. Cashier coi suoi ferri che cercava di raddrizzare le persone quando l'onnipotente le aveva create gobbe. No, no, fece Mr. Toller, Cashier era in gamba, tutto onesto e senza trucchi. Ma c'è Saint John Long, ecco il genere di uomo che chiamiamo ciarlatano, che fa la pubblicità di guarigioni di cui nessuno sa niente, un tipo che vuol fare del chiasso facendo finta di saperne più degli altri. L'altro giorno ha fatto finta di tagliare il cervello di un uomo e di estrarne mercurio. «Mio Dio, com'è terribile scherzare con il corpo della gente!» disse Mrs. Taft. Dopodiché si giunse a sostenere da varie parti che Lydgate giocava persino con la costituzione di persone rispettabili per i suoi scopi e che era ancora più probabile che nei suoi irresponsabili esperimenti mettesse sotto sopra i suoi pazienti ricoverati in ospedale. Soprattutto c'era da aspettarsi, come la padrona del Tankard aveva affermato, che sezionasse con noncuranza i loro cadaveri. Infatti Lydgate, dopo aver assistito Mrs. Gobby, che era apparentemente morta di un'affezione cardiaca, i cui sintomi non erano ancora molto chiari, troppo arditamente aveva chiesto il permesso dei parenti di aprire il corpo e così aveva arrecato un'offesa che si era rapidamente diffusa oltre Parley Street, dove quella signora aveva risieduto per molto tempo con una rendita che rendeva questa associazione del suo corpo, come quelli delle vittime di Burke e Eyre, un insulto palese alla sua memoria. Le cose stavano a questo punto quando Lydgate parlò dell'ospedale a Dorotea. Bisogna osservare che sopportava le inimicizie e le stupide concezioni errate con molto coraggio, essendo consapevole che erano in parte causate dalla sua buona dose di successo. «Non mi scacceranno», disse parlando confidenzialmente nello studio di Mr. Fairbrother. «Qui mi ho offerto una buona occasione per gli scopi che più mi stanno a cuore e sono abbastanza certo di procurarmi entrate sufficienti per i nostri bisogni. Fra poco procederò il più tranquillamente possibile, ora che non ho nessuna seduzione che mi allontani dalla casa e dal lavoro. E sono sempre più convinto che sarà possibile dimostrare l'origine analoga di tutti i tessuti. Raspale e altri sono sulla stessa pista e io ho perso tempo. In questo campo non ho la capacità di fare profezie», disse Mr. Fairbrother, che aveva fumato la pipa pensieroso mentre Lydgate parlava. «Ma quanto all'ostilità in città, la supererete, se sarete prudente». «Come devo essere prudente?» chiese Lydgate. «Mi limito semplicemente a fare quello che mi viene messo davanti. Non posso farci niente contro l'ignoranza e il rancore della gente, non più di quanto potesse fare Vesalius. Non è possibile adattare la propria condotta a delle conclusioni stupide che nessuno può prevedere». «Verissimo, non intendevo dire questo, intendevo solo due cose. La prima è che vi teniate alla larga da Bulstrode il più possibile. Naturalmente potete continuare a fare del buon lavoro per voi col suo aiuto, ma non legatevi a lui. Forse sembra che io parli per risentimento personale, e ne ho molto, lo ammetto, ma il risentimento personale non è sempre nell'errore se lo riducete alle impressioni che ne fanno semplicemente un'opinione. Bastrò per me non è niente, disse Lydgate con noncuranza, se non per motivi di utilità pubblica. Quanto a unirmi strettamente a lui, non mi va abbastanza genio per questo. Ma qual era l'altra cosa che intendavate dire? Chiese Lydgate, che si accarezzava la gamba col maggior agio possibile e non si sentiva molto bisognoso di consigli. Ma sì, questo. Fate attenzione, esperto crede. Fate attenzione a non farvi intralciare da questioni di denaro. So, per una frase che vi siete lasciato fuggire un giorno, che non vi piace che io giochi tanto a carte per amore del denaro. Su questo avete una buona dose di ragione, ma cercate di tenervi al largo dall'aver bisogno di piccole somme che non avete. Forse sto parlando di cose superflue, ma un uomo piace assumere un'aria di superiorità su se stesso, mostrando il proprio cattivo esempio e facendoci sopra un sermone. Lydgate prese i consigli di Mr. Fairbrother con cordialità, anche se da parte di un altro ben difficilmente li avrebbe sopportati. Non poté fare a meno di ricordare che ultimamente aveva contratto alcuni debiti, ma questi erano sembrati inevitabili e ora non aveva intenzione di far altro che badare alla casa in modo semplice. I mobili per cui si era indebitato non avrebbero avuto bisogno di essere rinnovati e per molto tempo neppure la riserva di vino. Molti pensieri lo rallegravano a quel tempo e giustamente un uomo consapevole di essere entusiasta per scopi degni è sostenuto nelle meschine ostilità dal ricordo di grandi uomini che dovettero farsi strada combattendo, non senza ferite, e che aleggiavano nella sua mente come dei santi patroni che l'aiutano in modo invisibile. A casa, la sera stessa in cui aveva chiacchierato con Mr. Fairbrother, teneva le lunghe gambe distese sul divano, la testa all'indietro, le mani intrecciate, dietro di essa secondo la sua posizione preferita per rimuginare, mentre Rosamond sedeva al piano e suonava una melodia dopo l'altra, di cui il marito sapeva solo, da quell'elefante motivo che era, che era in armonia col suo umore come se fossero state melodiose brezze marine. Proprio allora era qualcosa di assai bello nello sguardo di Lydgate e chiunque avrebbe potuto essere incoraggiato a scommettere sul suo successo. Nei suoi occhi scuri e sulla bocca e alla fronte c'erano quella placidità che proviene dalla pienezza del pensiero contemplativo, la mente che non cerca, ma osserva, e lo sguardo sembra colmo di ciò che è dietro di essa.